In questo momento, guarda, è come se fossi in uno studio radiofonico perché c'è un microfono molto vicino al telefono, io ho le cuffie e io sento sia te che me in cuffia, quindi siamo come alla radio praticamente, quindi sei come in onda in questo momento. Perfetto, allora aggiustati il nodo della cravatta, spegni le luci del camerino perché potrebbero interferire con la registrazione. Senti, allora, la prima cosa che ti volevo chiedere, che poi è la cosa che non chiedo per me, ma perché per chi non conosce ancora il tuo progetto Cantarena, volevo chiederti come nasce il progetto Cantarena e quando nasce. Io mi ricordo che quando ancora non ti conoscevo, avevo saputo dell'esistenza di Cantarena prima tramite Sannelli, poi mi ero fatto un'idea sfogliando il libretto di Giovenale che avevi già pubblicato, no? E l'impressione che avevo avuto era stata quella di una sorta di tentativo di incrociare un po' quelle che sono le esperienze del book crossing, quindi dello scambio gratuito, della disseminazione di un libro di poesie ovunque e un'attività editoriale vera e propria, no? Anche perché i tuoi libri erano distribuiti sì, in Italia si può dire, ma il loro epicentro era quello era genovese essenzialmente, poi giravano per un passaparola essenzialmente. Quindi dimmi qualcosa su Cantarena, dimmi. Ecco, a quel punto lì sicuramente ho sfondato in queste mie, in questi miei desideri e mi hanno insegnato a utilizzare il computer. E poi ovviamente ho dovuto procedere con le mie gambe. E dopo è venuto fuori che avendo io scritto Gianni Milano e qui diventa tutte cose molto complicate, quindi bisogna andare molto veloci nel dire, cioè trascurando molti dettagli, avendo avuto modo di poter contattare Gianni Milano, praticamente poi Gianni Milano mi ha chiesto di provare, pubblicarli sempre tra virgolette, perché appunto era tipo bricolage, roba da computer usata in maniera maldestra da chi non sapeva utilizzare queste tecniche, e praticamente di pubblicargli una raccolta di poesie sue. Cosa che feci, però mi spiaceva che fosse e che inserì in un numero di Cantarena come supplemento. E quindi avevo intenzione di continuare sempre con i supplementi. E allora mi rivolsi a Lorenzo Bicci per chiedergli se poteva indicarmi qualche nome di poeta che lui conosce, giovane, che lui conoscesse, eccetera, mi aveva indicato Massimo Sannelli, e che è stato il secondo libretto di poesie che avevo inserito come supplemento. Quindi poi strada facendo è venuto fuori il discorso delle prose, è venuto fuori il discorso dei laboratori, sono venuti fuori altri discorsi e quindi ha cominciato a prendere corpo una situazione sempre tra migliaia di virgolette, una situazione editoriale che io non mi aspettavo di poter raggiungere. Quindi era una cosa che appunto tu l'hai vista da una prospettiva di cosa realizzata, io invece la vedevo come una specie di cellula che pian piano si trasformava in un organismo. Sì, io ho visto i primi numeri, infatti penso che quello di Giovenale fosse poi di poco successivo al numero di Sannelli, giusto? Mi Mi sembra. pare di sì, se Esatto. ricordo bene, sì, sicuramente tra i primissimi. Ma io credo che, almeno per come avevo visto l'esperienza di Cantarena, proprio in quel periodo lì di cui tu stai parlando, e Cantarena aveva già una sua connotazione molto particolare, ossia veniva già considerata come una pur esperienza di nicchia, ma con un'esperienza di nicchia di alta qualità. Soprattutto poi il fatto che non fosse una stampa digitale, non fosse una stampa, un'edizione elettronica, quindi destinata solamente a internet, come altre esperienze che si erano fatte in quel periodo e che si stanno rinnovando in questi tempi, ma che fosse proprio una tiratura, mi sembra che fossero un centinaio di copie, no? I I libretti, libretti sì, intendo, sì. 100, Cantarino invece ne facevo al massimo 40, poi Sì, no, ma i avevo perso libretti gli erano altri sul 50, centinaio, giusto, i anche più, libretti. però Cantarino, io chiamo Cantarina il giornalino. Sì, io invece mischio sempre tutto quando dico Cantarena, poi sono i quaderni, no? Quelli, Quaderni, esatto. esatto. I quaderni sono a un centinaio, no? Giusto di. Esatto, quindi essendo comunque una tiratura di 100 copie, che è una tiratura di tutto rispetto, distribuita senza nessun costo, nel senso, esatto, questo aveva Senza reso, nessun prezzo, sì, senza nessun, cioè il costo era il tuo, il prezzo, in pratica tu compravi e sì. Da buon editavi, genovese cerco di sottolineare. esatto, da buon genovese tu in realtà facevi il genovese al contrario, facevi, no? Esatto. Eri il negativo dei genovesi, no? Quindi i soldi li mettevi perché potessero girare queste 100 copie di questi libretti di autori contemporanei più o meno conosciuti. E io credo che, un po' come sta avvenendo adesso in maniera diversa per la Camera Verde, nel senso che la Camera Verde ha una realtà editoriale, diciamo, Istituzionale. più istituzionale, più tradizionale, anche per i processi stessi di stampa, no? Per il fatto che presenta un centro culturale nel quale vengono poi presentati i libri, nel quale sono accentrate poi tutte le copie dei libri o gran parte delle copie dei libri. Ecco, io penso che Cantarena costituisse una sorta di decentramento invece, per cui il libro veniva stampato da te, veniva stampato sotto questa etichetta Cantarena e poi veniva distribuito, viene tuttora distribuito, no? È affidato a persone che lo regalano e quindi diventa una diffusione legata alle conoscenze di persone con altre persone. È un po' come Della funziona. catena. Esatto, una lunghissima catena che piazza tutte queste 100 copie in maniera più o meno agevole. Già il pensiero che comunque un libro di poesia possa avere già garantiti 100 lettori, e sono 100 lettori scelti da altri lettori Alla che... maniera della Biennale di Venezia di Sgarbi, sì. Sì, ecco, diciamo alla maniera della Biennale, ma senza i padrini, ecco, perché... Comunque sia, nessuno ha un ritorno di qualcosa da questo punto di vista. Esatto. Comunque volevo tenere, anche se è una cosa secondaria, tenere presente appunto che la catena è uno dei vocaboli racchiusi interno al vocabolo Cantarena, no? Esatto. Che però è un fiume, giusto? Esatto, Un torrente che scorre. Fra l'altro c'è anche un viadotto venendo a Genova che si chiama, venendo da Finale verso Genova, che si chiama Cantarena. Non so se tu hai mai fatto caso. torrente. Sì. No, anche perché non viaggio in automobile, quindi non ho fatto caso. Però c'è il fatto che c'è un Cantarena, questo l'ho preso da internet, un Cantarena che passa da Renzano. Esatto, e infatti credo che il viadotto sia da quelle parti lì. Quindi c'è un altro torrente Cantarena. Allora, vedi, allora sarà sicuramente un viadotto che scavalca quel torrente lì. Senti, volevo chiederti, ma tecnicamente il passaggio dalla rivista ai quaderni, che mi hai detto stasera essere stato non un passaggio ma un iniziale affiancamento, no? Visto che, esatto, da cosa è stato spinto? Quindi Gianni Milano, a conoscenza della rivista, ha pensato... Esatto, perché Esatto. gliel'avevo inviata, perché io ho conosciuto Gianni Milano per il semplice fatto che avevo letto un libretto di stampa alternativa intitolato Il maestro e le margherite, che praticamente in cui in questo librettino si citava la sua esperienza di zoo con Pistoletto e con Mario Merz a Vernazza quando facevano queste, diciamo, rappresentazioni teatrali di strada, e non ne sapevo nulla. Avevo chiesto a Rosa Leonardi della galleria, praticamente se ne sapesse qualcosa, e mi aveva detto di no. E allora ho avuto l'idea di trovare l'indirizzo di Gianni Milano, scrivendo all'editore e ottenendolo di poterlo contattare. Gli avevo mandato, volevo saperne qualcosa di più di questa sua esperienza, gli avevo mandato alcuni numeri arretrati del giornalino e gli chiedevo, poi in un secondo momento gli ho chiesto se voleva collaborare al giornalino. Gianni Milano mi aveva detto di sì, mi aveva mandato il materiale, era stato molto disponibile, e a quel punto è chiaro che poi è nata questa necessità, richiesta di poter avere, anche perché evidentemente Gianni Milano favoriva anche il mio discorso, di poter pubblicare un librettino, quindi era una cosa nuova. Però diciamo che anche in questo caso trovava una strada già aperta, perché sicuramente nei miei desideri, perché i desideri sono tanti, quelli poi che si possono realizzare sono proprio pochi, pensato che poteva anche esserci meglio l'idea di tanto la poesia mi è sempre, almeno da quando ho cominciato a capire qualcosa, è sempre piaciuta. Per cui in conclusione l'idea di poter fare, tra virgolette, l'editore di poesia, insomma, mi ha molto sedotto, mi è molto piaciuta, per cui in conclusione non mi sembrava vero, tant'è che appunto poi ho contattato Biggi per riuscire a proseguire su questa strada. Io direi che, razionalmente parlando, le ragioni siano queste. Senti un po', ma diciamo in tutti questi anni quando hai distribuito centinaia e centinaia di copie, perché a che numero sei arrivato di, Il non di giornalino giornalino, di doveva uscire il libretti? prossimo, il 39, Esatto, ma dei libretti a e dei quanti? Di libretti non ho tenuto il conto, non poesia, ma so quanti siano. secondo me sono più di Penso 10. della collezione QC, penso che siano una ventina, mi pare che Ecco. l'ultimo debba essere il 23 o qualcosa, Esatto, non quindi l'ultimo pubblicato, sì. Ok. che è in gestazione, credo che sia il 23. E poi c'è la collezione, quella di prose, che sono molto meno. Poi c'è quella dei laboratori che sono 3 o 4, non di più. Poi c'è un numero solo che dedicavo ai classici, che era di Sanelli e di Chiaradaino Shakespeare, eccetera. Insomma, questo è quello che mi ricordo, credo quasi tutto, se Beh, non tutto. diciamo che in giro ci dovrebbero essere circa più di un migliaio di Non te lo so esemplari. dire, non Beh, so. occhio direi Migliaio, di sì. ovviamente, contando che sono 100. Sì. Ok. L'uno dei numeri ho fatto, che è l'unico, ho fatto 150 copie invece di 100. Sì, beh, comunque ci sono sicuramente più di un migliaio di copie. Hai mai avuto qualche ritorno, qualche riscontro, persone che ti hanno scritto? Perché hanno trovato, perché hanno conosciuto, perché hanno ricevuto, Mi se pare di no. no. Ora, sicuramente qualcosa può darsi che mi sfugga, ma mi pare di no. Persone non conosciute, Esatto, no, persone, perché sicuramente no. l'importante è quello, sono sempre le persone non conosciute, che poi siano conosciute ad altri non importa, però l'importante è persone slegate da te. Sì, direi proprio, cioè, legate nel senso più totale, perché Sì. poi è chiaro che qualcuno, ora sai, non è che possa aver registrato tutto, ma qualcuno che attraverso la catena possa aver detto un qualcosa che mi sia arrivata, sì. O un'email, voglio dire. Un'email? Beh, sì, sicuramente sì. Per esempio, che sicuramente hai mosso tu la Matarrese, no? Per esempio, No, no, per sì. fare Beh, un esempio. io adesso ti dico, tanto per farti un esempio, ho mandato diversi Cantarena, e di Cantarena sia di quelli che abbiamo fatto insieme con Rati, sia quello che avevo fatto insieme con Ilaria, e poi ho mandato anche qualche Gianni Milano, qualcuno di quelli di cui avevo più di una copia, li ho mandati giù in Sicilia a De Pietro, no? Che è un poeta siciliano molto bravo, che ha una, diciamo, collabora, ha una piccola realtà editoriale anche lui, dalle parti di Catania, no? Non ne Quindi sapevo nulla, sì. no, li ho mandati recentemente e a lui ho detto anche in passato che secondo me valeva la pena che lui ti scrivesse, no? Evidentemente non lo ha ancora fatto, comunque una persona molto discreta. Se Credo di ti do. no. Per No. esempio, uno che mi aveva scritto in seguito però è finita lì subito. Era stato per, no, Mesa, che Sanelli aveva, che era Francesco Marotta, mi pare, Ah, Francesco Francesco Marotta, Marotta, sì, sì. che mi aveva scritto una mail, eccetera, però poi è finito tutto lì. Ma ti aveva scritto una email per una pubblicazione o solo in No, riscontro? come diciamo, tra virgolette, ringraziamento. Ok. E senti un po', e istituzioni invece? Qualcuna? Ma istituzioni, inteso in senso stretto, no. Per Sì. esempio, devo dire che Ricaldone, già quando erano usciti i primi numeri, io non sapevo nulla perché poi non avevo neanche il mio computer, aveva già recensito generosamente l'esperienza di Cantarena, ne aveva parlato bene. Poi so che in qualche occasione è anche intervenuto, per esempio la raccolta di Giampiero tu inizialmente mi hai detto che la rivista era nata in seno alla scuola, no? Alla scuola media. Nata in seno alla scuola, sì, nel senso che desideravo che ci fosse un maggior coinvolgimento, Ma è che anche un c'è risvolto, stato, anche ma è un risvolto difficile da didattico. definire, perché se, io credo che ci sia stato, però c'è stato in maniera che bisognerebbe inseguire su tracce indirette. Di diretto direi che o non c'è stato niente o c'è stato assai poco. Quindi anche i contributi dei ragazzi della scuola media. I contributi dei ragazzi sono avvenuti perché quando io insegnavo, ora non insegno più, quindi non ho più la possibilità, era fatto in maniera tale che diceva ai ragazzi che se volevano voglia di pubblicare qualcosa su quel giornalino lo potevano fare, su argomenti ovviamente che sceglissero loro. E l'altra invece possibilità di intervento che avevo dato loro, che però non sapevano che poi sarebbero finiti su Cantarena, che quando c'era stato l'incontro con qualche artista, a volte io chiedevo ai ragazzi di esprimere come compito, però non obbligatorio, ma come compito, di dire le loro impressioni, i loro pareri, qualsiasi tipo fossero, per cui poi li raccoglievo e li pubblicavo. Tra le cose che tu hai raccolto in tutti questi anni, no? Ci sono diverse registrazioni, sia audio che video, di molti artisti che hanno accettato di incontrare i ragazzi della scuola media. Ora, questo che tu hai, in vario formato, no? CD, VHS, cassette, è un archivio di voci e di segni che ormai è storico, quasi per certi Mi pare personaggi. di sì. Beh, Sì, perché alcuni personaggi ormai, penso come. soprattutto ad esempio Io penso a Mesa, Summers, no? di Mesa, ma sì, ma penso anche a Pietro Grossi, per esempio, che Sì. purtroppo è scomparso come Mesa. Pietro Grossi è scomparso, aveva 80 anni, mi è arrivato, più di 80 anni, mi è arrivato, poco più, è arrivato però a scuola che aveva, credo, già compiuto i suoi 80 anni. E che era, oltre ad essere il Pietro Grossi, musicista di fama, direi internazionale, anche ovviamente negli ambienti specialistici, ma era anche uno che sperimentava all'interno del linguaggio visivo. E questo lo devo grazie a Rosa Leonardi che ha contattato Pietro Grossi, che ha provveduto a far sì che arrivasse a scuola. E come tu hai mai pensato che questo archivio possa costituire un'esperienza a sé rispetto ai libretti, quindi un ulteriore sviluppo di Cantarena, oppure lo hai sempre visto come un serbatoio per poi riversare il materiale ottenuto in questi incontri e in articoli sulla rivista? Il discorso è un Al di po' là dei limiti riguarda un po' tutte tecnici, voglio dire. queste ottiche. Direi che sicuramente mi serviva per trascrivere, però il discorso principale non era questo, era che sapendo di avere a scuola persone di eccezionale livello, sicuramente piaceva documentarlo, quindi nasceva proprio come volontà documentativa. Però che ci fossero gli strumenti, le possibilità di fare delle operazioni tecnicamente, non dico ovviamente di alta capacità, ma che fossero perlomeno accettabili, non sempre avvenuto, perché non avendo persone disponibili che potessero registrare con le dovute conoscenze, molto spesso la videocamera veniva data in mano a studenti che a volte sì, erano in gamba e sapevano utilizzarla molto bene, ma il più delle volte non erano in grado di cogliere nemmeno le cose più. Per cui voglio dire, c'è molto materiale, ma una parte di questo materiale è È molto. inservibile, dice. No, inservibile proprio no, però un po' deludente sì. Quindi. Però è registrazione anche quella. Sì. Secondo me è documento anche quello. E io vedo soprattutto questo materiale di documentazione che però non sono riuscito a far sì che potesse essere acquisito da qualcuno che ritenesse di conservarlo. Io lo ritengo molto importante dal punto passa dalla didattica. E non credo, a parer mio, che ci siano tanti documenti in questa direzione. Cioè il modo di poter fare scuola unitamente alla cultura. È sempre stata fatta, intendiamoci, però la documentazione non c'è. Penso, tanto per dire, in questo momento mi vengono in mente, oltre alla classica Montessori, penso a Wittgenstein, penso a Caproni che faceva il maestro, però non esistono documentazioni. Sì, non ci sono delle testimonianze di quello che effettivamente succede. Io, combinazione, guarda, sempre proprio riguardo di questa cosa che tu dici, mi viene in mente, che, Ilaria, tu sai, no, che lavoro fa? Ilaria è Che in... dice Sì, Secli? la Secli. Ilaria fa l'insegnante elementare, no? Ah, non lo Sì, sapevo, lei è sì. insegnante... Sì, direi... No, sai che forse... Adesso non vorrei Diciamo sbagliare... insegnante. No, sì, però è proprio in mezzo ai bambini. Adesso non so se sia sì, ma penso elementare, non di asilo, penso. Beh, comunque lei ha a che fare con i bambini molto, sì, direi elementare, molto piccoli, no? E io mi ricordo che, quando ci siamo incontrati per fare la copertina di Chiuderanno gli occhi, a Modena, lei mi raccontava che una delle esperienze più belle nella sua attività lavorativa, insomma, era quella di leggere le fiabe ai bambini, no? E questa era un'esperienza che per lei aveva un valore duplice, perché se da un lato era la capacità sua di immergersi nell'ambiente letterario della favola, del mondo che creava intorno a sé la favola, dall'altro il suo privilegio e il ritorno massimo che lei aveva di questa durante questa lettura era il poterlo fare ai bambini. Quindi non soltanto la fiaba, la favola come una lettura mentale, ma Certo, come... però le fiabe letterario non trascurabile. No, assolutamente, ma proprio il fatto di portarle vive in mezzo ai bambini, mi ricordo che mi diceva essere uno dei momenti migliori della sua attività di insegnante, no? In combinazione, oggi su Nazione Indiana c'è un articolo di, mi sembra, Francesca Matteoni, che riporta un breve stralcio di una confessione, di una lettera di Marilena Renda, che anche lei, insegnante, scrittrice, no, critica, e dice come nell'arco di un anno scolastico si conceda ogni volta, specie alla fine dell'anno, il piacere di leggere una fiaba, una favola ai propri alunni. Sì. Quindi anche questa cosa che tu stai dicendo, la capacità di fare cultura senza scinderla dalla didattica, ovvero la capacità di, diciamo, dare un messaggio, ma nello stesso tempo, facendo dell'arte o facendo rivivere dell'arte che è già stata scritta, ecco, trovo che sia uno degli aspetti più significativi sui quali dovrebbe poter insistere uno scrittore, ma allo stesso tempo dovrebbe poter insistere un musicista, un pittore, chiunque faccia arte. Il discorso, a mio parere, adesso, siccome hai toccato, io adesso vado un po' per la tangente, ma siccome hai toccato un argomento che mi sta molto a cuore, è che io, e ne ho parlato anche su Cantarena, è che dal mio punto di vista, ovviamente di osservazione, poi non so quanto sia corretto, è che ho visto nell'ambito della musica del campo della, ovviamente, cultura musicale intesa come produzione, oltre che come diffusione, una maggiore attenzione nei confronti della scuola di vari ordini e grado e della didattica, che non abbia trovato invece nel campo dell'immagine, dove la scuola è pressoché ignorata, tant'è che ultimamente ho visto una specie di dizionario enciclopedico pubblicato da Mondadori sull'arte, cercando scuola, c'era un pochino che è di recente pubblicazione, 3-4 anni fa o poco più, riferito dove si cercava scuola, si poteva trovare che No, questo è vero, infatti io, E anche nel campo della letteratura, quindi. sì, ma guarda, mentre tu parlavi, mi veniva in mente l'esperienza scolastica che mi ha raccontato un'amica lituana, che è quella ragazza con la quale ho collaborato in passato ad alcuni cortometraggi, lei ha fatto la musica in sottofondo, no? E lei, quando l'ho conosciuta, studiava in una sorta di liceo musicale, poi è passato all'accademia, però sia nei tempi in cui studiava nel liceo musicale, l'equivalente liceo musicale lituano, no? Sia adesso che è passata, sì, all'accademia, al conservatorio, no? O un'accademia musicale, adesso non so lassù come siano divisi gli ordini, no? Però mi ha sempre parlato di questa cosa che tu hai detto, cioè il fatto che la materia musica inserita nel percorso scolastico non era una materia avulsa poi da una condivisione professionale, sì, ma una condivisione proprio della materia tra insegnante e alunno, tra alunni stessi, alunni di classi diverse e tra la stessa scuola e diciamo il paese in cui era inserita, c'era proprio diciamo, un connettivo costante, mentre tutto questo non sussiste, non ho mai sentito nulla di ciò né in Italia né all'estero, di meno da persone di mia conoscenza, per quanto riguarda per esempio la letteratura. La letteratura nella scuola italiana viene vissuta come un trauma da superare attraverso la memorizzazione di nozioni, che penso che sia, Non sempre, no, però però ci insomma, sono. in linea di massima si nota spesso un approccio di questo tipo. Io ho sentito spesso ragazzi dire che è inutile leggere il testo perché tanto c'è non il riassunto, ma c'è la critica. Quindi l'insegnante interrogava sulla critica, il testo passa in secondo piano. Quindi il testo alla fine, e ti ripeto, ho sentito quando dico ragazzi, non solo ragazzi di liceo, parlo anche ragazzi di università, no? Per i quali il testo originale era ridotto ad alcuni brandelli, ad alcuni frammenti presenti nell'antologia, qualche citazione, poi in realtà al testo era sostituito lo studio critico. E questa, secondo me, è una delle aberrazioni più clamorose della letteratura, no? E l'uccisione, certo. Letteraria. E sì, è come se uno nell'ambito musicale sostituisse al CD il libretto. Capì? Il libretto però non il libretto di un'opera lirica, no? Che a quel punto sarebbe, no, no, neanche lo spartito, proprio l'introduzione critico-musicale che c'è nei libretti dei CD, in cui ti spiegano magari in breve la biografia. Sì, esatto. E a quel punto uno dicesse: io ho ascoltato l'opera, conosco l'opera che c'è in questo CD, conosco, che ne so, le variazioni di Good, no? E così via. È spaventoso. Muovendoci sempre su questa strada, mi viene voglia anche di citare un articolo che ho letto tantissimi anni fa, minimo, penso 30, 35, addirittura 40, non lo so, e non, spero di non tradire quello che veniva detto, però era un articolo di Gianni Baget Bozzo che diceva, ovviamente riassumendo in maniera selvaggia, diceva che la scuola aveva il compito soltanto di trasmettere cultura, non di produrre cultura. E questo io lo trovo negativo in maniera estrema. Intanto ovviamente non deve diventare che la scuola sia produttrice di cultura, perché allora non sarebbe e non svolgerebbe il suo ruolo, però a mio parere il pensare che il trasmettere cultura non sia produrre cultura è già Eh sbagliato. sì, perché comunque la trasmissione presuppone l'interpretazione di chi riceve. E quindi non è possibile che chi interpreta a sua volta non faccia qualcosa. Del resto uno dei punti cardine che si legge spesso nelle osservazioni, che un poeta o uno scrittore fa sulla propria scrittura, sulla scrittura degli altri, è proprio questa, cioè si devono leggere tanti libri prima di scrivere qualcosa di proprio perché molto spesso ciò che si scrive è una risposta a delle domande che si sono lette. Esatto, quindi, oppure la riformulazione delle stesse domande in termini propri. È chiaro che se uno, parte dal presupposto che la scuola o qualunque istituzione, un'università, o anche la radio, la televisione, qualunque mezzo uno decida di utilizzare per la trasmissione di qualcosa, sia appunto solamente una trasmissione, quindi un veicolo che debba trasportare un'informazione da un punto a un altro, e questa informazione debba essere quindi stipata, memorizzata nella testa di qualcuno e nient'altro, beh, oltre a essere un'idea Sbagliata, sì, infatti. sbagliata e anche molto pericolosa. Beh, tieni conto che questo è un difetto che si ha poi anche nell'età più adulta, se quando tu ti trovi di fronte, per esempio, a questo è un difetto soprattutto dei libri di poesia, no? Quando ti trovi di fronte a un libro di poesia, lo compri, apri e trovi una introduzione critica, una postfazione critica, trovi un apparato critico che circonda, apre, chiude e magari inframmezza anche il libro che compri, che in qualche modo già tende a sigillarlo e a bloccare ogni tua possibile obiezione. Quindi è una formalizzazione a priori di un valore che poi tu sei costretto a riconoscere al testo, anche se tu magari non saresti propenso a sminuire il testo, ma a riconoscere altri valori. Questo non ti fornisce, nei termini in cui è scritto, una semplice chiave di lettura, ma spesso ha proprio un tono autoritario attraverso il quale vuole o essere, diciamo, o presentare quella verità come l'unica verità, oppure in maniera più smorfiosa, quando non è autoritario, vuole semplicemente cercare di convincerti che hai comprato una cosa molto buona e che sarebbe bene che continuassi a comprarla. Quindi non è neanche un libretto delle istruzioni, ma è quasi un tentativo di farti promettere che continuerai a seguire quella strada perché quella strada lì è buona. È tremendo come approccio, no? Infatti, molto spesso ci siamo detti, almeno io ti ho detto che apprezzo molto quelle pubblicazioni inglesi, no? Nelle quali la biografia dell'autore è ridotta a 3 righe, molto spesso con informazioni del tutto ininfluenti, come per esempio, non so, ha fatto un figlio, un gatto, no? Cose così che sono spiritose, sono un tipico humor inglese, no? Oppure proprio brevissimi stralci di recensioni tratte da quotidiani, ma tutto questo è posto spesso nelle alette, nella quarta di copertina, non entra nel testo, non compete col testo. Sullo stesso livello. Ravattare è bello, comunque. adottati dalla scuola, magari in dati, da commenti, quelli che sono appunto all'interno, quei commenti fatti con le note riferite al verso oppure alla riga della prosa, e ti rimandavano cercando di darti o il contesto in base alle quali erano nate, oppure anche la loro interpretazione. Mi pareva che fossero uno stimolo a vedere oltre. Cioè, se quello che io appunto condividevo, il discorso che tu hai fatto poco fa, cioè quello che io non accetto e ho trovato alcuni insegnanti così, è quello che ciò che. Cioè, in poche parole, detto in poche parole, non apprezzavo il fatto che ci fosse uno schermo tra colui che era lo studente, colui che fruiva dell'opera e l'opera. Cioè, l'opera in una teca è questo e tu la puoi solo guardare girandole attorno e basta, non la puoi toccare. Sì, io ti dico sul discorso delle note, le note all'interno del testo possono essere utili in testi particolarmente complessi nei quali hai bisogno di richiami al di fuori per poter, come dici tu, inquadrare il lavoro in una cornice più ampia, no? Nello stesso tempo però la nota critica in senso stretto, associata a un testo, a me è un po' disturba. Preferirei al limite, se il testo richiede un lavoro critico, qualora lo richiedano, di spessore, preferirei che ci fosse un libretto con il testo nudo, esatto, e poi a parte ci fosse un accompagnamento nel quale c'è un'analisi critica approfondita. Però capisci, questo può valere su opere complesse o quando tu hai a che fare con degli autori che hanno alle spalle una produzione che richiede che qualcuno faccia ordine, in tutto quello che è stato scritto. Io prima facevo più che altro riferimento un po' a autori che Di oggi. di oggi, sì, che hanno alle spalle magari pochi libri, 3-4 raccolte, no? 3-4 raccolte magari non molto consistenti, non come valore sto dicendo, ma come evoluzione, no? Magari sono 3-4 opere che però spostano di poco l'una rispetto all'altra, al discorso poetico, no? E allora a quel punto, quando io mi trovo, magari anche con un libro di esordio, no? Che ha bisogno del padrino, come in un battesimo, e, ecco, io sono un po' disturbato. No, Preferisco, capisci? condivido Io pienamente preferisco assolutamente che ci sia veramente il testo nudo e crudo e poi avere a che fare con quello, se no è come se io conoscessi una persona e questa persona mi si presentasse con i genitori, la famiglia, capisci? E mi dovesse far conoscere tutta la sua, discendenza, no? Ma io in questo campo, ad esempio, penso ai cataloghi che sono, no, sempre in corrispondenza a una mostra, eccetera, dove molto spesso, fortunatamente non sempre, quello che fa la presentazione della mostra di turno parte dai massimi sistemi, Certo. dove scopano da tutti i personaggi più illustri, compagnia bella e brutta, e poi alla fine, quando arriva a parlare dell'artista, dice quattro parole. E praticamente mi sembra che sia una specie, intanto una cosa esteriore rispetto all'opera dell'autore, e magari l'opera dell'autore non ti dice nulla, ma neanche quel testo introduttivo diceva nulla, se non la volontà di enfatizzare un qualche cosa che poi alla fine cioè è un discorso a sé stante molto vuoto e molto. No, qui adesso io faccio un discorso che è più, come dire, più di dettaglio rispetto a quello che facevi tu, però mi disturba molto vedere queste introduzioni, infatti non le leggo quasi mai. No, no, è vero, è vero. Poi magari vedi che in questi cataloghi le foto dei quadri o dei disegni sono sacrificate. Magari ha visto sì e no in fotografia due o tre opere di quel tizio e comincia cose buffe a mio parere, che però sono sempre, ritornano sempre a un punto di partenza che è quello del rapporto diretto con l'opera, lasciando perdere tutto quello che poi sarà in seguito il futuro, le costruzioni di storia, di questo e di quello. Certo. E di poter, cioè, ci sono nel campo della storia e della letteratura, tanto per dirne qualcuna, in cui è anche dell'arte, degli autori, degli artisti, siano ricordati a malapena per il loro nome o che altro, e poi ti trovi davanti a queste opere, o magari anche solo un verso della poesia o un quadro, e ti accorgi quanto grandi sono stati, anche magari solo in un verso. Certo, ma perché sono persone queste che non avevano bisogno del giudizio degli altri e quindi sono rimaste marginali perché non hanno cercato di entrare nel centro dove tutti giudicavano gli altri, tutti giudicavano tutti e cercavano di giudicarli al meglio per essere poi giudicati altrettanto bene. Certo, ma è lo stesso problema che c'è, per esempio, anche uscendo dall'ambito strettamente artistico con lo studio della storia. E studiare la storia attraverso un testo che ne sia solo l'interpretazione o la cronaca riscritta non è come affrontare la storia sfiorandone i documenti, visitandone i luoghi, ascoltandone le voci. Specie la storia moderna, la storia del secolo scorso, è una storia che può essere, non ti dico esaurita, ma può essere, diciamo, sperimentata anche e quindi vissuta in qualche modo, no? Proprio attraverso documenti originari dei protagonisti. Rinchiudersi ad uno studio, limitarsi ad uno studio che è soltanto lo studio dell'interpretazione di qualcuno, Riduttivo a maniere estreme. sì, fa lo stesso difetto di prospettiva di cancellare il testo originale e accettare di leggere non so, di legge la critica di Montale, nella quale trovi pur qualche brandello diverso, no? Qualche briciola, perché è ovvio che chi ha pranzato ha lasciato un po' di briciole, quindi il critico che si è cibato di Montale, qualche briciola l'ha persa, l'ha lasciata lì, c'ha le dita sporche, e meno male, no? Perché vuol dire che almeno ha messo le mani in pasta, però chi non ha letto Montale o chi lo ha letto male dovrebbe prima partire dal testo e poi andare alla critica, poi tornare al testo e così via. C'è tutto un continuo rimbalzo e poi magari provare a scrivere in prima persona o a riflettere in prima persona su cosa sono, anche una persona che non scriva, riflettere in prima persona su che cosa voglia dire veramente Montale, poi capire se, adesso dico Montale perché è l'ultimo nome che ho fatto, se, e poi vedere. Sì, per fare un esempio, poi vedere se ritorna, se sente l'esigenza di ritornare a quelle poesie, no? Costruirsi un percorso. Tante volte abbiamo detto, ci siamo detti chiacchierando, no? Che ci sono nella poesia contemporanea tantissimi nomi e attraverso questi nomi si potrebbe costruire un percorso che parte da una poesia estremamente lirica e porta ad una poesia più sperimentale e che non hanno ragione di sussistere le contrapposizioni spesso acide che ci sono tra un autore e l'altro, tra una scuola e l'altra, che sì, che francamente non capisco dove Poi vogliono andare a ripeto, sono parare. cose molto, mi auguro, deperibili, per cui quando si crea quella mummificazione del tempo, quelle saranno già scomparse del E tutto, però hanno fatto vivere male le no? persone che Certo, nel quello senza dubbio. frattempo vi si sono impegnate, no? Perché anziché scrivere hanno usato le parole per fare la guerra, no? Si sono tirati i pennini, si sono tirati, no? Quindi questo. Senti, tornando un attimo al discorso di origine, volevo chiederti se a margine di questa conversazione che stiamo facendo, e quindi in maniera assolutamente legata però a quello che tu hai detto e ad alcuni elementi che sono già emersi, voglio sapere se ti sei mai fatto tu un'idea o nell'arco di questi anni, una sorta di immagine di un autore ideale di Cantarena e di un lettore ideale di Cantarena, cioè quando tu immagini il prossimo autore che verrà, è un autore che ancora non conosci, o quando tu immagini un lettore tipico di Cantarena, un lettore cui tu non hai consegnato direttamente il libretto, ma che lo ha avuto da qualcuno, come lo immagini come persona? Tanto per cominciare, mi trovo un po' a disagio a rispondere a questa domanda, anche perché non è che io mi faccia un'idea di un lettore, di un autore. Quello che desidero ovviamente come autore è che possa chiedermi di pubblicare, tra virgolette, sempre pubblicare qualcosa. Quello che immagino io è che sia un autore che abbia da dire le cose, è banale quello che sto dicendo, però non so trovare un'altra risposta più intelligente, che abbia una visione sulla realtà un po' diversa dalla solita, che abbia la possibilità di spostare l'ottica. E come lettore di Cantarena direi un po' la stessa cosa, che sia uno che va, che poi non lo trovi su Cantarena, pazienza, senza dubbio. Ma mi piacerebbe che fossero persone che hanno voglia non di spostare l'ottica per spostarla, no? È un pochino, direi, per usare un'immagine che uso spesso, ma anche se è un po' ardita, una persona che è innamorata, nel momento in cui percepisce effettivamente un amore profondo, si accorge che il linguaggio, che è indispensabile, non è sufficiente per dire quello che c'è da dire. E quindi in conclusione c'è il bisogno di intervenire per, diciamo, completare nel senso di aggiungere, non di portare a compimento, a fine, che non c'è mai un termine nelle cose non sono mai esaurite. E la vita non si esaurisce mai, anche se si vivesse 200 anni. Per cui in conclusione a me farebbe piacere che autori e lettori, e io stesso in prima persona, potessimo vivere di questo, cioè riuscire a vedere le cose sotto una veste differente. E senti un po', ma secondo te questo progetto Cantarena potrebbe avere tra i lettori dei ragazzi? Come argomenti, eccetera, temo di no, Quando nel dico ragazzi senso. intendo non necessariamente 15-16 anni, no? Intendo ragazzi, fai conto, metti pure dai 15, ma i 20-21 anni, quindi i primi anni di università. Ecco, sì, dunque, intanto diciamo che c'è una collega della scuola che aveva un figlio che è stato mio alunno per un po' di tempo. Ovviamente 3 anni, che è interessato ai libretti di Cantarena, me lo dice la madre, io non lo saprei dal figlio, il figlio non mi ha mai detto nulla. Ne ho avuto poi modo una volta che era terminato il rapporto insegnante-alunno, di poterlo incontrare e dialogare con lui. Però la madre mi dice che è interessato a questi libretti, che li legge volentieri, soprattutto quelle di poesia. Per cui io, cioè sì, ci si può avvicinare a queste cose, però penso che sia abbastanza difficile, che siano eccezioni. Una cosa che mi piace, tra le cose belle che a volte capitano a tutti gli insegnanti, c'è stata quella di aver incontrato, questo è un episodio ovviamente, un alunno che era un ex alunno che era all'università e mi aveva detto: professore, ho apprezzato le cose che ha fatto, però nell'età in cui mi trovavo allora Però certo che colpisce il fatto che, per esempio, visto che Cantarena non nasce in una realtà marginale come potrebbe essere una provincia dove sto io, no? Ma nasce in una città come Genova che, per quanto se ne possa sentir dire male, comunque è una città universitaria, no? E colpisce il fatto come non ci sia stato un'incidenza di questa realtà Questo di fenomeno. Cantarena universitaria, cioè non ci sia stato per esempio una diffusione a livello della facoltà di lettere, dei quaderni o della rivista, magari mettiamo più dei quaderni che della rivista, come non ci siano creati dei gruppi di persone che ti abbiano contattato per avere questi quaderni, per scambiarli. Stavo pensando anch'io perché pensavo a realtà analoghe a Bologna, per esempio, e da quello che io vedo dall'esterno sembrano molto più vive, cioè sembra che se ci fosse stata un'attività come la tua avrebbe penso sicuramente attirato intorno a sé l'interesse anche di universitari e questo avrebbe portato non soltanto come si dice, alla creazione di un ambiente in cui, come dicevi tu, la cultura è fatta e non è soltanto recepita, no? Ma avrebbe anche portato a un continuo ricambio di voci, di stili, avrebbe, diciamo, vivacizzato molto di più un percorso che invece in una città come Genova rischia veramente di essere un percorso, una tirata in solitaria, come se ti muovessi in una galleria al buio, no? Che stai attraversando qualcosa di molto lungo, ogni tanto affiora qualche luce, ma non ti stai ben rendendo conto che intorno a te c'è una città che sta dormendo, che invece dovrebbe forse un po' svegliarsi, ma non soltanto, ripeto, su Cantarena, proprio su tutto ciò che ha quello stesso spirito che tu stai mettendo in questo progetto. Certo, la memoria Penso ad sfuma in un attimo. esempio un mio insegnante di storia dell'arte, quando ero al liceo, era stato Pasquale Rotondi. Pasquale Rotondi, io quando frequentavo il liceo di lui non sapevo nulla se non quello che vedevo, che era un insegnante di storia dell'arte e che si faceva rispettare senza mai alzare la voce, senza mai dare una punizione, eccetera. Non so quale carisma avesse al suo interno. Riuscisse a ottenere questi risultati senza dover minimamente fare alcuna fatica. E questo personaggio, poi sono venuto a sapere, è stato girato da, mi pare, Minoli o qualcosa. erano scritte nella storia e nessuno le leggeva. Sì, sono potuto recitare. È piena di personalità di grande livello, però il guaio è che molte persone non se ne rendano conto. O per esempio in Galleria Mazzini, che dove c'era un bar dove si incontravano Camillo Sbarbaro, Montale, tanti altri, e trovare. certo. Penso adesso nel prossimo numero dovrebbe accennarne il teatro della Borsa, dell'Arlecchino, che era lì dal Palazzo della Borsa, e praticamente come dire, ha portato a Genova, negli anni, primi anni 50, ha portato personalità tipo, che so, Aldo Trionfo, che metteva in scena le opere del teatro dell'assurdo, Ionesco, Beckett e così via. Beckett forse no, ma Adamov e così via. E tra cui c'era anche Paolo Poli, giovanissimo, è arrivato Carmelo Bene, giovane, c'era Quartucci, persone che poi sono diventate importanti a livello nazionale, allora muovevano, non dico proprio i primi passi, ma quasi. E meno male che adesso dove c'era, poi c'è stato il caffè del Cinema Olimpia lì, e al posto del caffè del Cinema Olimpia poi è subentrato un altro bar che fortunatamente ha ripreso nome, la Borsa di Arlecchino. Però se andiamo a dire in giro alla città, ad alcune persone che non siano del ramo teatrale, queste cose mica le sanno, sono dimenticate. Anzi, a volte ne parlano, c'è una polemica ad esempio per l'arte povera portata, no, supportata da Germano Celant, che viene detto che la prima mostra di arte povera sia stata organizzata a Genova, però dicono che è a Torino, e alcuni testimoni dicono a Torino perché Torino fa più, cioè conviene più che si dica che è nata a Torino che non che è nata a Genova. Questo non lo sapevo. Ora, sai, c'è una belga un po' tipo quella che è nata prima, il cubismo, il futurismo, è chiaro che è nato il cubismo, però poi il cubismo è stato influenzato dal futurismo, il futurismo dal cubismo e così via. E quindi è difficile, cioè è nato prima per me è sicuramente il cubismo, però stando alle critiche che ho letto. Però sta di fatto che poi non si può dire che il cubismo ha fatto il futurismo, cioè erano due realtà diverse che si sono abbracciate a vicenda e hanno dato vita, non a caso in Russia si parla non di futurismo e cubismo, ma di cubo futurismo. Sì, un'unica realtà. Quindi in conclusione è una polemica anche quella di dove sia nata l'arte povera, però stando a sentire persone tipo Berlinghetti, tipo Minetti, tipo altre persone, fanno capire chiaramente che è nata a Genova. Poi queste sono minuzie, stupidaggini a mio parere, perché ciò che importa è capire cosa l'arte povera ha supportato, portato. Però se parliamo di Quelli berlinesi, no? Sì. Beh, Genova li avrebbe, eh? Le cisterne, i locali tipo cisterne del Ducale, no? Non puoi dire che non potresti esserci anche tu, in condizioni diverse. Mario, senti, no, dicevo, ti ringrazio di questa chiacchierata lunghissima che abbiamo fatto e che... No, in che senso? È una chiacchierata lunghissima che abbiamo fatto e che adesso vedrò di elaborare per mettere poi nella forma giusta su internet e ti passerò il file. Adesso... Bah, sì, ma ti manderò comunque il link. Ah, dovrei prenderti un'oretta per ascoltarlo, perché comunque durerà. Sì. Beh, però è una testimonianza secondo me molto forte, molto utile. Credo che soprattutto visto che questi libretti, diciamo che fino adesso questi libretti sono andati in giro per la Liguria sicuramente, ma come ti ho confermato poco fa, sono anche usciti dalla Liguria e sicuramente ne sono usciti prima che li mandassi io nel passato, no? Io credo che comunque anche una testimonianza così viva all'interno di una chiacchierata nella quale giustamente si è presa poi la tangente, si è parlato anche di altro, renda molto meglio la visione a tutto tondo del progetto Cantarena rispetto a quella che potrebbe essere un'intervista scritta o comunque certo una tua. Sì, però diciamo che se da un lato la materia scritta prende delle pieghe stilisticamente anche più interessanti, dall'altro però impedisce quella che è l'immediatezza della conversazione. E poi ti ripeto, credo che nulla come una conversazione fatta così, telefonica nel cuore della notte, ormai sono quasi le 11, no? Quindi, diciamo, viste le nostre frequentazioni notturne, no? La nostra. Esatto, siamo agli inizi, per noi è l'alba, quindi dovremmo cominciare a aguzzare i denti e uscire fra poco, perché è il momento di fare l'aperitivo, no? Questo. Andare fuori, no? E quindi dicevo che mai come il tono anche di una conversazione poi può rendere anche la misura della persona, ecco. Senti, allora si interrompo la registrazione.